cos'è quest'estate di Roberta Giordano. E quindi cominciamo un'altra settimana, un'altra puntata di Cos'è quest'estate. Ben svegliati, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a qualsiasi ora abbiate puntato la sveglia. Poi qualcuno era già sveglio da chissà quanto, qualcuno invece sta andando a letto, qualcuno è al lavoro, qualcuno sta partendo, perché siamo alla vigilia di Ferragosto, quindi molti sono già partiti venerdì, più fortunati, qualcuno si sta muovendo anche oggi. Però dalla viabilità sentivamo che è piuttosto scorrevole la situazione di strade e autostrade, ma sapete che vi aggiorniamo ogni poco. Di cosa parliamo, essendo appunto alla vigilia di Ferragosto? Parliamo soprattutto di turismo oggi, dei dati molto positivi per il nostro paese e migliorati rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa. La crisi si fa sentire un po' meno, quindi in realtà anche, diciamo, per chi purtroppo non è potuto andare in vacanza per un qualsiasi motivo, comunque essendo il turismo una delle industrie principali del nostro paese, va bene un po' per tutti, perché migliora l'economia, lo stato dell'economia in generale. Quindi a questo proposito parleremo anche dei luoghi da visitare, dei musei aperti, degli eventi che ci sono in questi giorni, di dove si può andare anche chi resta in città a Ferragosto. E poi viaggi in bicicletta, il cicloturismo va abbastanza per la maggiore ultimamente, c'è chi fa vacanza, ha voglia di faticare e di pedalare, in questo modo di godersi anche i paesaggi, di mangiare con le pedalate la strada e di potersi fermare anche a tappe, diciamo per i più forti, più atletici, ma non solo, a seconda dei percorsi. C'è poi il decalogo della Tintarella, ogni anno, diciamo, che giova ripetere queste indicazioni, queste regole per non bruciarsi al sole, per non avere dei danni poi permanenti, affinché la pelle non invecchi precocemente, quindi non perdete questo decalogo. E poi ci saranno gli aggiornamenti anche per quanto riguarda gli autovelox, ci sono delle novità, ce le faremo dire da un collega, visto che a volte viene voglia, quando la strada magari è un po' più libera, di accelerare. Guardate che però forse ce ne sono di nuovi e anche appunto nuove regole. C'è anche la possibilità ad agosto, cioè chi va in vacanza, chi resta in città, chi rimane bloccato in ascensore. È successo a una persona che in buona parte conoscete e conoscerete. Ieri l'ho chiamata così, giusto mi serviva un'informazione, ho detto: guarda che sono bloccata in ascensore da circa un'ora. E quindi che cosa significa una domenica d'agosto all'antivigilia di Ferragosto, in una città semideserta, in un palazzo completamente deserto, rimanere bloccati in un ascensore per circa 2 ore? Che cosa bisogna fare anche a quel punto? Vi ricordo i numeri per intervenire, che sono: 1 per messaggio WhatsApp, che è il 349-238-6666, 349-238-6666, oppure il numero verde 800-24-0024, anche per dire se siete in viaggio dove state andando, se siete già in vacanza dove vi trovate, i consigli anche che volete dare a chi sta per partire, a chi è già in certe località, a chi rimane in città. 800-24-0024, però prima, appunto, come dicevo prima, gli aggiornamenti per chi sta viaggiando. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Ma cos'è quest'estate? Classico, nostalgico, ma sempre verde, Vamos alla Playa, per chi è fortunato e sta andando al mare, per chi ci andrà, per chi c'è stato e anche per chi magari resta in città ma vuole sapere un po' che cosa succede quest'estate. Ma cos'è quest'estate? Lo affrontiamo oggi parlando prima di tutto del turismo nel nostro paese, dei dati positivi e anche fra l'altro di un'analisi un po' più in generale sul turismo nelle località più richieste, anche non solo italiane, perché da qualche tempo avete sentito, diciamo, reclami soprattutto nei giorni scorsi da Barcellona in Spagna per quello che viene definito, con un termine, diciamo, un po' così, un po' greve, il turista cafone, nel senso che da risorsa, che continua a essere naturalmente per le località turistiche il turista, in certi casi sta suscitando una certa insofferenza. Si moltiplicano infatti i casi di insopportazione da parte dei residenti nelle località turistiche più gettonate, e ciò che fino a qualche tempo fa veniva considerata un'opportunità, in certi casi, diciamo, diventa un po' un eccesso che esaspera. Ci sono state lamentele da Barcellona, appunto, adesso, al di là del terribile caso di cronaca di cui avete sentito parlare anche nel giornale radio, di questo ragazzo italiano che è stato picchiato a morte in una discoteca da tre russi, però stiamo parlando proprio così di avvento dei turisti in generale, quindi da Barcellona e lamentele a Parigi, ma anche a Venezia. Sapete che si è parlato ultimamente anche di un possibile numero chiuso, per ora nulla del genere, però insomma il turismo va diciamo goduto anche in modo soprattutto civile. Comincio su questo argomento a salutare Vittorio Messina, che è presidente di Assoturismo Confesercenti. Buongiorno Messina. Buongiorno a tutti voi. C'è Mara Manente, direttrice del CISET, Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, e membro dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Manente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benvenuto anche a Carlo Rienzi, presidente di Codacons. Buongiorno Rienzi. Non c'è Rienzi? Ah, dopo ce l'abbiamo Rienzi. Allora, perché poi parliamo anche in certi casi del caro estate, poi ci sarà Giovanni Bastianelli, che è direttore Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, lo chiameremo tra poco. Intanto con il presidente di Assoturismo Confesercenti, Messina, vorrei un po' commentare questi dati. Comincio a snocciolare qualche dato di questa estate molto positiva, un Ferragosto che va verso il tutto esaurito, sancendo che questa forse è la prima estate, la vera ripresa del turismo italiano, secondo questa indagine per l'appunto di Assoturismo Confesercenti, per questo lungo ponte. Per chi non ha fatto una vacanza lunga, è comunque un lungo ponte da venerdì, diciamo, pomeriggio fino a domani sera, sono state già riservate l'86% delle camere offerte online, con punte del 95% nelle località balneari e lacustri. Tra le regioni, Sardegna e Liguria sono le due che registrano più camere prenotate, pensate, il 95%, seguite dalla Puglia 93%, dalla Sicilia 91%, un dato che quindi conferma l'andamento positivo del trimestre estivo giugno-agosto, per il quale si stimano 3 milioni e mezzo di presenze in più rispetto allo scorso anno. Poi ci sono altri dati sul turismo: la nostra industria turistica vale 70 miliardi, il 4,2% del PIL, molti altri, però intanto vogliamo commentare i dati attuali. Messina, ci sembra, cioè, possiamo essere soddisfatti rispetto a questi numeri? Sì, siamo numeri. Siamo molto soddisfatti. Effettivamente è la prima stagione che decreta ufficialmente l'uscita dalla crisi. Il comparto turismo reagisce bene per una serie di fatti e di variabili contingenti, però quello che a noi interessa è certamente la qualità dell'offerta, la professionalità degli imprenditori del turismo e finalmente dei dati, più 3 milioni e mezzo di visitatori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso non fa altro che confermare questa uscita dalla crisi. C'è tanto chiaramente da fare, una rondine non fa certamente primavera, quindi una stagione così con grande soddisfazione certamente non decreta l'uscita per sempre dalla crisi. Dobbiamo cercare di consolidare questo importante dato per noi nelle stagioni a venire. È importante anche il trend positivo assieme al turismo balneare, che ha in questo periodo ha visto delle grandissime presenze anche nelle città d'arte. Quindi l'industria turismo da nord a sud, come diceva benissimo lei, la Liguria col 95%, la Sicilia col 91%, risponde e risponde positivamente. Adesso noi da imprenditori del turismo chiediamo quegli interventi che abbiamo da sempre richiesto alla politica. Lo sviluppo economico lo facciamo noi imprenditori, le precondizioni affinché questo si determini lo fa proprio la politica. Scelte certe, obiettivi precisi, vediamo di risolvere problemi atavici come un'eccessiva pressione fiscale, non soltanto nei confronti delle imprese, ma anche adesso nei confronti del turista. Delle scelte che devono sicuramente premiare la logistica, soprattutto dei trasporti dei paesi extraeuropei. Il futuro sta nell'offerta e nella richiesta da parte del turista ormai extraeuropeo. Ecco, noi chiediamo queste condizioni per poter continuare a fare sviluppo turistico. Non dimentichiamo, come diceva bene lei, il comparto turismo determina in maniera indiretta quasi il 10% del PIL Italia, quindi una voce importante che va tenuta in grossa considerazione in chiave sviluppo, non comparto turistico, ma in chiave sviluppo Italia. Infatti, come diceva lei, adesso aggiungo un ulteriore dato. Parlavamo, dicevo prima, del che vale l'industria turistica in Italia 70 miliardi e qualcosa, però questi miliardi salgono a 172,8, naturalmente aggiungendo tutto l'indotto, no? Quindi il 10,3% del PIL, del prodotto interno lordo. Sono 2,7 milioni i lavoratori nel settore, e poi c'è da dire che l'Italia ha più siti UNESCO di qualunque altro paese, 51 più 2 del Vaticano, anche se bisogna poi fare questa postilla a questo dato, perché se noi ricaviamo dai nostri siti UNESCO in termini di appunto capitalizzazione, diciamo di sfruttamento, di valorizzazione 100, Spagna e Brasile, che ne hanno meno, ricavano il 130, Regno Unito, Germania e Francia da 180 a 190, la Cina a 270. Come mai ancora Messina questa, cosa vogliamo dire, incapacità o poca capacità di valorizzare davvero tutte le bellezze che abbiamo nel nostro paese dal punto di vista turistico, culturale, artistico? Certamente quello che dicevo poco fa, sediamoci attorno a un tavolo, ognuno faccia la propria parte. Noi, per quanto riguarda imprese e imprenditori, dobbiamo fare un percorso sicuramente di qualificazione e di, diciamo, preparazione dell'imprenditore a fare impresa. La politica deve creare quelle condizioni, quelle precondizioni di cui discutevamo poco fa, perché è necessario che ci siano dei trasporti intelligenti, che ci sia una e che si renda una fruizione di questi siti in maniera diciamo consone a quella che è poi l'utilizzazione ai fini turistici. Non basta, ecco, che un sito venga dichiarato patrimonio dell'UNESCO, perché da solo scoppi la scintilla che faccia trasformare la fruizione di questo sito in vera e propria industria del turismo. Occorrono quelle scelte. Vede, l'Italia in tema di turismo spesso si comporta come con una decretazione che sia quasi di urgenza. Noi abbiamo bisogno di programmazione, non abbiamo bisogno di trattare il turismo come un problema e spesso come un problema da trattare con provvedimenti d'urgenza. Assolutamente no, pianifichiamo e sviluppiamo una politica che sia, ecco, omogenea e che abbia un obiettivo comune. Dovremmo lavorare tutti verso un obiettivo comune, percorsi diversi, ma l'obiettivo deve essere comune. Adesso vorrei, l'abbiamo raggiunto Carlo Rienzi, parlare anche di costi. Ci erano stati pubblicati, mi pare, 2 giorni fa i dati Istat. Si parlava di un rincari a luglio, questo registra l'Istat, del 12,5% rispetto a giugno per i voli e del 13,2% per i traghetti. Carlo Rienzi, quindi dal punto di vista dei costi, a che punto stiamo? Perché chiaramente poi bisogna anche incentivare i turisti, sia sì, italiani sia certo, internazionali. Sì, però non è soltanto il problema dei costi. Io vorrei fare un'osservazione su quello che ho sentito poco fa. Cioè, se noi continuiamo a puntare sulle grandi città d'arte e dimentichiamo che in Italia vi sono migliaia di piccoli comuni che hanno opere d'arte, che hanno delle eccellenze di vario tipo, vorrei ricordare che noi abbiamo un portale che si chiama Italive, cui partecipano anche grandi imprese, Autostrade per l'Italia, DASI, eccetera, dove è praticamente tutti i piccoli comuni che hanno un'eccellenza da mostrare agli altri possono entrare, partecipare a una sorta di gara, e abbiamo notato che da qualche anno, da quando funziona questo portale, il turismo si è spostato parecchio in questi piccoli centri. Cioè, se noi non valorizziamo queste realtà del territorio, che sono ricchissime di valori artistici, ma anche per esempio gastronomici, di particolarità di produzione di alimenti e quant'altro, non riusciremo mai ad avere un vero sviluppo del turismo, perché poi le grandi città come Venezia, e sappiamo i problemi di Venezia, o Firenze o Roma, e conosciamo i problemi di queste città, si saturano. E quindi bisogna andare verso un'altra direzione. L'altra grande criticità è quella è vero che il turismo è aumentato, ma non griderei alla gioia, al successo per questo, perché poi vediamo i dati, per esempio, del Salento, dove la Guardia di Finanza ha trovato delle case vacanza pollaio praticamente dappertutto, cioè posti dove in una stanza con un bagno senza finestra vi erano 10-11 persone. Allora, vedete, il problema dei costi, che è un problema serio, perché è un problema generale, perché se aumenta il costo del treno, del traghetto e del trasporto su macchina, su auto, è chiaro che poi diventa sempre più difficile andare in viaggio e fare turismo. Ma non è il primo problema, perché la gente è disposta anche a pagare qualche cosina di più se sa che andando in un posto trova servizi efficienti. E quindi bisogna che gli operatori turistici si educhino a non voler semplicemente spremere come un limone nel mese di agosto il turista per cercare di mettere in cassa quei soldi che gli servono poi per andare avanti il resto dell'anno. Perché questa è una politica assolutamente sbagliata, ma devono i comuni soprattutto controllare, cioè noi non abbiamo in Italia un controllo preventivo, ci basterebbe mettere un impiegato di ogni uno degli 8.000 comuni davanti a internet e guardare, incrociare il nome del comune con la parola case vacanza o simili, per avere un elenco e andare, mandare un vigile a controllare che non sia un pollaio, cioè non ci vuole proprio nulla, non abbiamo nessuna attivismo da parte dei sindaci, nonostante sia il loro principale interesse quello di portare nel loro comune persone a spendere soldi. È chiaro questo, Rienzi. Vorrei sentire, intanto ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori, numero verde 800 24 00 24, numero verde quindi gratuito ma anche ecologico, così evitate di disperdere pensieri e tempo in altri rivoli e vi concentrate qui su ma cos'è quest'estate. Dove siete, in quali località o dove pensate di andare e quali consigli o quali domande anche volete esprimere? Mara Manente, a proposito di questi dei dati forniti prima e dalle argomentazioni di Messina e anche da quello che diceva prima Rienzi, che analisi fa del turista italiano tipo? Bene, diciamo che i dati ci segnalano peraltro alcuni elementi abbastanza interessanti quest'anno. Il primo dato è che mantiene il turismo internazionale la dinamica positiva che peraltro già nello scorso biennio avevamo registrato, e c'è poi un recupero interessante anche del mercato domestico, quindi degli italiani che si muovono all'interno del paese. Ecco, per parlare del turista tipo, in realtà dovremmo parlare di mercati, di segmentazioni molto, molto differenti tra loro, ed è qui uno degli elementi che a nostro parere è su questi elementi che si gioca poi anche la possibilità di gestire una crescita, perché il vero problema è proprio questo. Il turismo è un fenomeno che sappiamo a livello mondiale cresce tra il 4 e il 5%, quindi non è tanto un problema di numeri, ma poi di riuscire a gestire questa dinamica. Ecco, il turista tipo in realtà se pensiamo ai nostri mercati tradizionali europei, è un turista molto attento appunto alla qualità, come è stato già detto, anche desideroso di conoscere le caratteristiche più tipiche di località meno congestionate. Ecco dunque l'interesse per i centri minori, ma il 2017 è l'anno dei borghi d'Italia ed è stato un successo, ha dimostrato come sia possibile soprattutto presso appunto mercati in grado di capire le tipicità, le grandi qualità del nostro territorio, del nostro patrimonio artistico, ecco, di capire questo e di visitare quei luoghi che non sono i luoghi solo di congestione. In realtà poi il turista delle grandi città d'arte a sua volta non è un'unica, non appartiene ad un'unica tipologia, ma troviamo coloro, faccio riferimento a Venezia, faccio riferimento a Firenze, che addirittura preferiscono dormire lontano dai centri storici per poi visitare la città in momenti in cui la massa è meno evidente, meno pesante. Quindi c'è molto da lavorare proprio su questa anche differenziazione tra un turista responsabile che cerca esperienze nel nostro territorio, esperienze autentiche, quindi a contatto anche con il saper fare, ad esempio, oltre che con il saper mangiare bene, con il saper vivere bene. Ricordiamoci che il Made in Italy da un lato, ma anche il vivere italiano sono aspetti che trasversalmente sono interessanti. Ecco, però per riuscire a valorizzare questo è necessario si lavori molto bene nella promozione di questi aspetti presso i mercati che sappiamo essere, come dire, maturi e quindi interessati a questo. E poi il passaparola, non solo da persona a persona, ma anche il passaparola virtuale, può essere un elemento estremamente importante per valorizzare questi aspetti. Sentiamo Manuel da Trieste all'800 24 00 24. Manuel? Sì, io volevo dire, quanto riguarda l'ospite che parlava dei comuni che non si interessano, che bastava una persona per il controllo. Sì, diceva Carlo Rienzi di Codacons, del controllo delle case vacanze, per vedere se effettivamente c'è una ricettività all'altezza, insomma, con tutte le condizioni. Esatto, ma il problema è che i comuni non vogliono, i sindaci non vogliono perdere voti, perché lì sulle case vacanze c'è un sommerso incredibile, c'è tutto a nero, non c'è una regolamentazione chiara, perché si fa tutto di tutto e di più, e quindi mandare a fare un controllo, cercare di mettere un po' d'ordine, vuol dire perdere voti. Quindi è una cosa che non succederà mai, questa dei sindaci che mettono un poco di ordine, tutto lì. Manuel, adesso ne parliamo, sottopongo a Messina tra poco questo argomento di Confesercenti. Senti, tu sei in vacanza, sì. Vai in vacanza, non andrai, che io, fai? Io ho un albergo a Trieste e sono cresciuti, noi ci siamo trovati con 700-800 camere in più nel giro di 7-8 anni, va bene, tutto quanto senza una minima di regolamentazione. È tutto fatto così e dispiace perché non ho capito, scusa, solo... tu hai un albergo e chi è che è fuori dalla regolamentazione, fuori dalle regole? Non il bed and breakfast, quasi del bed and breakfast, noi siamo controllati dalla mattina alla sera e bed and breakfast sono lasciati lì, perché mentre un albergo ha un padrone con tre persone di famiglia che votano, le stesse camere di un albergo sono fatte da 50 famiglie e 100 voti che votano. Senti, e quindi, il tuo albergo come sta andando, Manuel? Come sta andando quest'anno? Molto bene, stiamo andando molto bene. Un agosto, già l'anno scorso era un agosto molto forte qua a Trieste, cioè era quello che ci aspettavamo, perché le città d'arte dovevano crescere a due cifre da molti anni e quindi stanno crescendo a due cifre, quindi tutto il turismo delle città d'arte minori sta crescendo molto bene. Manuel, molto contenti. Dimmi una cosa, per qualcuno che tu volessi attirare verso Trieste, due cose da vedere assolutamente a Trieste. Ma a Trieste, Venezia Giulia, la città nel suo in insieme, perché è bellissima, una delle città più belle, c'è il mare, c'è la montagna e dopo ci sono le particolarità, ci sono delle chiese, una chiesa di San Spiridione, una chiesa ortodossa bellissima. Grazie Manuel, così hai dato a tutto tondo una visione del turismo dal punto di vista di chi ha detto i lavori e anche consigli su Trieste. Su questo, Messina, vorrei il suo parere, insomma, vari sono gli spunti, no? Ma diciamo il punto centrale, anche quello denunciato da Manuel, è la questione dei controlli di cui parlava anche Carlo Rienzi, nel senso che poi ci rimettono quelli che invece lavorano con tutti i crismi, no? Dentro le regole. Come si fa a evitare questa speculazione, come vogliamo chiamare? Indubbiamente, qui i tempi radiofonici effettivamente poco si prestano ad affrontare un argomento così delicato dei controlli. Le norme, le regole ci sono, i controlli vanno fatti. I controlli vanno fatti perché uno degli altri problemi che noi chiediamo, quelli che da tempo non vengono affrontati, poco fa chiedevo l'eccessiva pressione fiscale non solo nei confronti delle imprese ma anche e soprattutto nei confronti del turista. L'altro è quello dell'abusivismo ormai fuori controllo. Diciamocelo, l'abusivismo ormai è fuori controllo. Abbiamo non solo un extra alberghiero, in alcuni casi anche l'alberghiero, le case vacanze, e qui Non si tratta semplicemente di un problema di lotta all'evasione, che è importantissimo, attenzione, che è importantissimo, ma qui c'è anche l'aspetto della qualità dell'offerta turistica e dell'immagine che il paese Italia, quindi il sistema turistico italiano, viene quotidianamente a perdere probabilmente per sempre, perché se è vero, come diceva la dottoressa, del passaparola, anche passaparola virtuale con i social, in positivo, per poter attirare nuovi turisti, è chiaro che esiste anche il passaparola negativo, e qui lo scontiamo e lo scontiamo, certo, tutti. Certo. E quindi bisogna intervenire, non solo i sindaci, ma tutte le autorità preposte. Esiste una normativa, questa va rispettata, e va rispettata in tutti i campi. Ci sono delle lacune legislative che vanno indubbiamente eliminate, soprattutto nell'extraalberghiero, negli home restaurant, anche in alcuni casi, ripeto, nelle strutture alberghiere, perché non è una guerra tra extraalberghiero e alberghiero, è una battaglia di legalità. Usciamo dalla alegalità per quanto riguarda alcuni comparti, e dobbiamo essere fieri di essere imprenditori. Poco fa dicevo, noi associazione di categoria dobbiamo fare la nostra parte nella preparazione, nel professionalizzare gli imprenditori, nel fare questo che è l'immagine. Guardi, poi non parlo più, guardi, c'è i comparti tradizionali come il commercio e l'artigianato ancora sono lontani dal superare la crisi. Il turismo dà i primi segnali no? Ecco, di poterlo, e quindi di bisogna cavalcare fare. Un po', e allora non solo cavalcare, allora agevoliamo ciò, città d'arte, non città d'arte, io sono perfettamente d'accordo, però il traino a noi la fa la città d'arte. Quando si pensa all'Italia, soprattutto il turista europeo ed extraeuropeo pensa a Venezia, pensa a Roma, non pensa certamente, non so, ad Agrigento, dove mi trovo io in questo momento, non pensa certamente a Taormina, non pensa certamente a piccole località, pensa proprio all'Italia, al sistema Italia. E allora noi utilizziamo questo traino e facciamoci trovare preparati. Leggo qualche messaggio, poi facciamo questa breve pausa e ritorno ancora con gli ospiti. Il numero verde per le vostre telefonate, i vostri commenti, i vostri consigli, anche lamentele, 800 24 00 24, oppure il numero per messaggi 349 238 6666, dove un ascoltatore scrive, per esempio: ciao Roberta, è sempre un piacere ascoltarti, grazie. Quest'anno, dice, ho scelto la Bulgaria, Mar Nero, cosa dice ancora? Dice: qui tutto costa la metà. Vabbè, Mar Nero è una qualità anche particolare, bisogna saperla apprezzare. Poi Roberta scrive: a Popoli in Abruzzo, una meraviglia, Abruzzo assolutamente da scoprire. Naturalmente questi sono i consigli, mentre un altro ascoltatore dice: turismo in Italia è un carnaio, UNESCO, Langhe, Monferrato, Boero hanno ottenuto il riconoscimento UNESCO, un anno dopo hanno scavato cave di pietra con distruzione dei boschi, in ottobre 2016 l'ho segnalato all'UNESCO. Io vi segnalo adesso questa piccola pausa, ci ritroviamo a breve. Ma cos'è quest'estate? Ma che strano sogno, di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava blu gardinia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente. Esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica, tra la musica, dolce, dolce, tutto andava giù, mentre la TV. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, stiamo parlando molto di turismo, di dati positivi, ma anche di cose che dovrebbero predisporre ad aggiustare un po' il tiro sul tipo di ospitalità, su eventuali eccessivi rincari quando la stagione è alta, e poi anche sui controlli di chi specula, di chi approfitta della situazione. Per esempio parlavamo delle case vacanze, in particolare Carlo Rienzi di Codacons denunciava questa cosa, e poi anche di come rendere il più possibile accogliente, con le condizioni più le condizioni migliori per anche il turismo internazionale soprattutto. Dice questo ascoltatore, vi ricordo che i numeri per intervenire sono quello per messaggio WhatsApp che è 349-238-6666 e poi il numero verde che è 800-24-0024. Dice questo ascoltatore, una bella vacanza all'Albania. Mare e montagna sono fantastiche, a poco prezzo, però non lo dite ad alta voce, dice, se no ci vanno troppe persone. Poi un altro ascoltatore scrive, Italia, paese delle seconde case e dei giovani senza lavoro, quale migliore occasione per generare reddito se non affittare la propria casa? E poi penso, dice, che io abito sul lago di Garda, nel paese di Garda, in un complesso di 42 appartamenti, poi però questo messaggio non riesco ad aprirlo, chiedo scusa. Allora interviene Fabio da Genova, il numero verde 800 24 0024. Fabio? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Fabio. Senti, io volevo fare una segnalazione, visto che ci troviamo in viaggio. Dove stai andando, Fabio? Se posso... A Scalea. In Calabria. Sì. Dalla moglie, parenti della moglie da Genova. Noi abbiamo però una segnalazione un po', visto che avete lì ospiti, persone dell'associazione consumatori, eccetera. Sì. Ho trovato scorretto fermarmi a fare benzina ora in Toscana, a Serra Valle, provare la benzina, il diesel a 1,70 euro, quando stamattina uscendo di casa era 1,35 euro. Mi è sembrato veramente scorretto, ma soprattutto, visto che si parla anche di turismo, credo che non facciamo anche una bellissima figura a incrementare i prezzi dei carburanti del 30%, 20% in questi 3-4 giorni di partenza. Ecco, era giusto una segnalazione. Hai fatto bene, mentre viaggi, testimonianza sono in diretta. Sì, dici, visto che da consumatore, visto che avete lì responsabili di associazione. Diciamo che penso che non sia un buon biglietto da visita neanche questo. Senti, poi adesso questo lo sottoponiamo a Carlo Rienzi. Dimmi solo una cosa, Fabio, tu vai a Scalea, bella località della Calabria, la consigli a proposito del passaparola? Certo, Scalea la consiglio tantissimo, ha delle bellissime località intorno, in pochi chilometri sia Maratea che è un po' Maratea molto bella lì, Basilicata, no, pochi chilometri sia Diamante, quindi diciamo che sono località in certi casi in alcune zone anche poco battute, ecco, diciamo ancora dal turismo di massa, quindi buona vacanza. Buona vacanza allora Fabio, te saluto e alla tua famiglia. Grazie. Carlo Rienzi è stato chiamato in causa. È possibile davvero che come diceva prima? Sì, il nostro ascoltatore è giustissimo e voglio informarlo di quanto siamo vittima di questa speculazione. Noi abbiamo organizzato con Autostrade per l'Italia un progetto che è in corso per il controllo dei prezzi della benzina sulla rete autostradale, perché lì è proprio un'estorsione, cioè tu non puoi uscire se hai finito la benzina, devi prenderla per forza lì, e i prezzi quindi vengono aumentati speculativamente. Ebbene, noi adesso controlliamo queste aree e vediamo quelle che hanno un prezzo maggiore della media, che è quella esterna all'area autostradale, quindi nella regione, e li denunciamo, cioè nel senso ne diamo notizie ai consumatori. E pensate che i petrolieri, i vari Eni, Esso e tutti gli altri, a cui avevamo chiesto di collaborare a questa campagna, si sono rifiutati. Cioè, quindi capisco l'indignazione. Non possiamo fare altro che consigliare di fare benzina in città prima di partire, meglio premunirsi, infatti, esatto, fare il pieno, conoscendo quelli che sono i benzinai a miglior prezzo, che ce ne sono tantissimi, perché veramente bisogna sfuggire a questo tipo di estorsione, speculazione che avviene poi nei momenti, soprattutto quando si ha bisogno, perché si sfrutta il bisogno del passeggero. Chiarissimo Rienzi. Adesso vorrei far concludere a Mara Manente con un commento su tutto quello che abbiamo detto sinora. Mara, poi c'è Giovanni Bastianelli. Sì, mi sembra evidente che quando parliamo di turismo parliamo appunto di una filiera molto articolata, molto complessa, che deve funzionare nel suo insieme. Il turista giustamente è sempre più evoluto, sempre più attento alla qualità del servizio, tiene sotto controllo appunto un insieme di fattori, quindi poi la qualità della vacanza, la soddisfazione, l'esperienza che porta con sé il rientro non è più e non è solo quella relativa alle bellezze che può visitare, ma è appunto al funzionamento del sistema paese. E questo è un aspetto che noi segnaliamo da lungo tempo, anche sotto il profilo economico. Prima si è parlato del valore economico del turismo, parlando, sono i dati che anche noi stimiamo, di prodotto interno lordo generato dal turismo. Ecco, però quel prodotto interno lordo è un prodotto che si distribuisce appunto lungo la filiera, quindi va a toccare veramente in maniera trasversale tutta l'economia del paese, ed è proprio su questo che si costruisce poi anche la forza di industria del turismo. Il commento ulteriore fa riferimento, essendo io responsabile di un centro di ricerca e di formazione, fa riferimento anche alle competenze, quindi alla preparazione. Come si diceva, di formazione di chi fa ricezione, no? Di chi fa ricezione, senso. Ma soprattutto anche formazione collegamento, di contatto con il turista. E questo significa non solo far evolvere le competenze più tradizionali, più di base, ma puntare anche agli aspetti manageriali del turismo. Noi, per esempio, da 25 anni formiamo manager nel turismo con un master in economia e gestione del turismo, e quindi nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo in questa direzione. È chiaro che il turismo è uno dei settori dove il contatto con il turista è uno degli elementi fondamentali. Quindi di spunti ce ne sono tanti. Il nostro paese aspetta da anni di crescere ulteriormente dal punto di vista del turismo, perché davvero le risorse sono infinite. In questo ringrazio allora Vittorio Messina di Confesercenti, Mara Manenti, appunto, Carlo Rienzi. Sì, grazie, buona estate, buone vacanze. E ringrazio Giovanni Bastianelli, grazie per la pazienza, in attesa da un po'. Buongiorno Bastianelli. Ho ascoltato con molto interesse questo intervento, tra l'altro di persone che conosco e che stimo tanto, perciò avete scelto molto bene. Grazie Bastianelli, ricordo che è direttore di ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, e parliamo un po' degli eventi, delle aperture a Ferragosto. Per esempio, faccio una lista più sintetica possibile: a Roma c'è Palazzo Venezia aperto, il Museo del Maxi, il Colosseo, Villa Adriana a Tivoli, che è meravigliosa, a Milano per Ferragosto Pinacoteca di Brera aperta, Cenacolo Vinciano, la Triennale, il Palazzo Reale. Poi a Venezia c'è la Biennale da vedere, la Galleria dell'Accademia. A Firenze restano aperti per Ferragosto gli Uffizi, il Forte Belvedere, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti. Poi non so, scendiamo a Napoli, a Pinacoteca di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale, poi ne parleremo anche con un ospite. Bastianelli, che cosa vuole, cosa possiamo aggiungere, se vogliamo fare così un giro intorno all'Italia in questo periodo? Ma guardi, direi di mettere in evidenza quello che è stato detto anche prima, cioè la vivacità di tutta l'Italia in questo periodo e soprattutto dei centri minori. È vero, in questo momento quello che interessa dell'Italia ai turisti è questa straordinarietà, la differenza che c'è tra paese e paese, tra borgo e borgo, tra città e città, sia dal punto di vista estetico e culturale, ma soprattutto dello stile di vita. E non dimentichiamo l'enogastronomia, perché in questo periodo qualsiasi comune di qualsiasi regione, anche la più sconosciuta interna, si dedica a dei momenti che ricordano la tradizione del piatto tipico o il prodotto della terra. Questo vivere così vicino, vivere un'esperienza unica, vicino alla natura e nella sostenibilità, in questo momento è l'attrattività numero uno del nostro paese. Su questo non si discute. Lo stile di vita italiano è la cosa che piace di più, i turisti lo dicono, perché non è mai la destinazione che impone il modello al turista, è il turista che sceglie. Noi abbiamo una serie di turisti a noi molto fedeli. Lei pensa che il 50% circa di tutti i turisti stranieri che vengono in Italia sono di lingua tedesca, e ci conoscono meglio loro di noi stessi. E loro ormai già da tempo hanno abbandonato, perché l'hanno già viste, le grandi città, le grandi città d'arte. È stato detto questo prima. È vero che quando un turista per la prima volta viene in Italia, soprattutto da oltreoceano, va a vedere le grandi città d'arte. D'altra parte lo facciamo anche noi quando andiamo in una città che non abbiamo mai visto. La prima volta noi guardiamo le cose più importanti e le più conosciute. Ma la concorrenza mondiale nel turismo si basa sui repeaters, cioè sulla capacità che ha un paese di fare tornare i turisti nel proprio paese. Per far questo bisogna essere vivaci, avere un'offerta molto forte e variegata, e noi abbiamo la fortuna di averla in forma naturale con i nostri paesi, con le nostre città e con il nostro entroterra, che è una cosa fondamentale. Però ci tenevo a dare di fare una sintesi, se mi permette, perché sono ultimo, ho questa grande opportunità, sì, diciamo, certo, per quel discorso che è stato detto prima. Secondo me tutto quello che è stato detto, cioè di fare le cose insieme, di metterci in tavola, si può sintetizzare in una parola: la politica dell'ospitalità. La politica dell'ospitalità non la fanno solo gli albergatori o i ristoratori, ma deve essere la destinazione, la città o la località che fa una politica di accoglienza, perché nel turismo bisogna credersi, bisogna avere l'orgoglio degli abitanti di mostrare ai turisti quello che si ha. E la parola magica di tutto questo è la qualità. Perciò non è una cosa molto complessa, non bisogna fare tanti studi, ormai noi siamo indirizzati verso questa strada e direi di dare un senso di positività, perché comunque l'Italia sta andando molto bene anche dal punto di vista della qualità, direi che stiamo migliorando. Meno male. Vorrei sentire, a proposito degli eventi, dei musei aperti, di dove andare a Ferragosto, Paolo Iorio, direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli. Iorio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Quindi aperto, domani lo troviamo aperto il museo del Tesoro di San Gennaro. Noi siamo aperti come politica a 365 giorni all'anno, quindi non chiudiamo mai, perché credo che sia un dovere avere un museo d'arte aperto per coloro che vengono in città, i turisti soprattutto, che investono, spendono, e quindi non devono trovare serrande chiuse. Esaltiamo qualche elemento del museo di San Gennaro, tanto amato tra l'altro San Gennaro. Innanzitutto che paradossalmente nessuno o pochi sanno che un museo è quindi un patrimonio non appartenente alla Chiesa, ma è laico, appartiene alla città di Napoli, e quindi già questo è il primo dato fondamentale. E il secondo è che è uno dei più importanti al mondo, perché ha circa 21.610 capolavori, che ovviamente non sono esposti tutti, e fra questi alcuni che sono considerati fra i gioielli più importanti al mondo, come la collana realizzata in 250 anni con donazioni di re, imperatori, papi, e la mitra gemmata con 3.964 pietre preziose e oro. E quindi diciamo che è una storia straordinaria nella storia, una storia di Napoli, perché racconta la fede di un popolo, non in ogni caso, ma anche la capacità di custodire e conservare un patrimonio di questo tipo. Iorio, grazie, mi ricorda solo gli orari: 365 giorni l'anno aperto. Da domani alle 9.30 alle 17.30 con un prezzo speciale di 3 euro e visite guidate gratuite. Benissimo, non perdete il Museo del Tesoro di San Gennaro. Se siete a Napoli andateci, perché lo sapete, è una delle città più belle al mondo, al di là di quello che si dice delle sue difficoltà, tanto che poi, se riusciamo a raccontarla oggi, la storia di questa ragazza che, pur essendo di Treviso, se ne è innamorata perdutamente, insomma, ha fatto parlare molto di sé in questi giorni. Grazie Iorio. E grazie, ci saluti grazie Napoli. Grazie. Invece andiamo verso nord, puntiamo con Chiara Bassetti della direzione artistica dei suoni delle Dolomiti in Trentino. Bassetti, buongiorno. Buongiorno. Quindi mi aspettavo di sentire una specie di canto alpino. Che fate lassù alle Dolomiti? Noi da 23 anni... Tipo una cosa così? No, non proprio così. Noi ospitiamo in quota tra i 2.000 e i 3.000 metri artisti provenienti da tutto il mondo che così si esibiscono di fronte a queste montagne bellissime. Nel cuore di queste montagne bellissime. Almeno c'è fresco lì? C'è fresco, visto che tutti lamentano il caldo? Si sta molto bene. Si dorme con la copertina la sera? La sera è un po' freschino in montagna, certo, ma si sta bene, si respira bene, proprio poi c'è un'aria tersa. Ma senti, qualche località lì dei Dolomiti, intanto per dare riferimenti a chi ascolta? Ma i prossimi appuntamenti saranno sopra Madonna di Campiglio, a Camp Centenaire, con un grande cantautore che è Jack Favoretti. Proseguiamo poi con Nada, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, in Val di Non, e poi torniamo nel Catinaccio con Bartolomei Bittman. Insomma, passiamo da destra a sinistra nel cuore di queste montagne che sono patrimonio naturale dell'umanità. C'è Bassetti, quindi sono in questi giorni, no? Fino alla fine di agosto? Sì, il festival è iniziato il 7 di luglio e prosegue fino al 31 di agosto. con 2-3 appuntamenti ogni settimana. Noi abbiamo un sito dove si può vedere il programma, che è www.isuonidelledolomiti.it. Come dicevo, tanti artisti, generi musicali molto diversi, dalla classica al cantautorato, alla world music, al jazz, e quindi insomma proposte per tanti gusti diversi, ad altitudini diverse, con impegni fisici diversi. Con lo scenario magnifico delle Dolomiti. Grazie Chiara Bassetti. Grazie. Questo in Trentino, da nord a sud, insomma, le occasioni di vedere e di fare cose sono tantissime. 800 24 00 24, numero verde per voi per intervenire, anche per dire dove state andando, dove rimanete, cosa consigliate. E poi tra poco parleremo di altri eventi, ma anche di come prendere una tinterella sicura e evitare invece di prendere gli autovelox. Ma cos'è quest'estate? Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento più accesi. Proseguiamo con Ma cos'è quest'estate? Roberto Giordano sempre con voi, sino alle 10 come in tutte queste mattine. I vostri commenti e le vostre opinioni al numero per i messaggi WhatsApp, che è 349-238-6666. Stiamo parlando ampiamente di turismo, dei dati positivi e anche di luci e ombre, per esempio appunto si parlava prima di abusivismo, del fatto che molti albergatori soffrono della presenza abusiva di case vacanze, diceva anche uno degli ospiti, a volte sono in tanti in un solo appartamento, magari anche piccolo, magari col bagno anche senza finestra, le case vacanza pollaio, diceva, cioè, sono diffusissime, però ci sono anche questi casi, effettivamente c'è necessità di controlli per cercare di migliorare sempre di più la ricezione nel nostro paese. Per esempio, a questo proposito, un ascoltatore scrive, ascoltatrice, mettete almeno un nome d'arte, dice: sono un albergatore, vorrei porre una riflessione. Premesso che l'abusivismo e l'illegalità sono una piaga tutta italiana e nonostante ci siano le norme, continuano a far credere che l'Italia sia il paese più bello del mondo, è un po' è vero, ma vogliamo fare un'analisi, dice, seria sul perché il turismo italiano è temporaneamente in crescita, che tutto il Nord Africa è chiuso ai turisti come la Turchia, eccetera, non lo dice alcuno, forse non sanno dove andare, scelgono noi o la Spagna. In parte è vero, per carità, tra l'Egitto e le località tradizionali che attiravano moltissimi italiani, da Marsalama a Sharm el Sheikh eccetera, con quello che è successo, la Tunisia stessa con gli attentati, insomma, un po' la paura del terrorismo ha anche sicuramente condizionato le scelte ultimamente degli ultimi 2-3 anni, però è vero che ci sarebbe anche la Grecia, che le Baleari, dice questo ascoltatore, appunto la Spagna. Diciamo un po' e un po', l'importante è che comunque in questo periodo ci siano dei miglioramenti per quanto riguarda il nostro turismo, allora approfittiamo proprio per migliorarne la qualità, come si diceva prima. Poi altri messaggi, dice Pietro da Roma: mobilità turistica nei giorni festivi, gli autobus non circolano, i collegamenti con le località turistiche sono molto disagiati, ecco, per esempio, no? A proposito di aggiustare il tiro in questo periodo. Poi Nicola da Milano dà un consiglio: visitare Montallegro sopra Rapallo, quindi in Liguria, natura e spiritualità fusi in mirabile armonia. Caspita, che consiglio. Poi Sandro da Rimini: bene la lotta all'abusivismo, però su tutti i fronti, chi è in regola e paga le tasse deve essere tutelato. Sentirei anche delle telefonate, per esempio Antonia da Venezia all'800 24 0024, numero verde per voi. Antonia, prego. Buongiorno, complimenti intanto, perché ascolto solo voi. Grazie, solo voi. E questo mi sembra il minimo, è d'obbligo, diciamo, Antonio, grazie. Solo molto voi, sì. Io abito vicinissima a Venezia, sono un quarto d'ora di treno. Bella fortuna. E vado spesso. Sì. Mi sono trovata proprio una cosa indecente, perché noi qui della zona sappiamo cosa si mangia, sai, i famosi cicchetti veneti, non so se lei conosce così. I cicchetti, ma cioè il bere. Sono delle polpettine, delle fritture, cosette così che si mangiano, come in Spagna, quelle cose che si prende. Sì, sì, ma piccoli quello assaggini. Che trovo, che ho trovato, forse mi hanno scambiata per una straniera, trovo indecente che diano questi piatti riscaldati anche 3-4 volte in microonde a prezzi carissimi e li diano soprattutto anche ai stranieri che si fanno un'idea brutta, insomma pensano che noi proprio non sappiamo mangiare, cioè, e sono carissimi, io trovo proprio un imbroglio, insomma. Difatti un giorno sono stata e dopo i camerieri ho lasciato là, perché io non sono una che guardi, se ho fame mi basta anche il pane, cioè non sono una persona assolutamente. Però dici, se paghi e vuoi qualcosa di un po' diverso, di particolare, vuoi poterlo gustare. Ma ho avuto l'infelice idea il cameriere di chiedermi come mai signora non ha mangiato. A quel punto proprio che la mia amica è rimasta sconvolta perché non fa parte di me, ho detto, ma come si permette anche di chiedermelo? Non si vergogna, mi ha portato una cosa riscaldata 5 volte in microonde, che non ha nulla a che vedere con il nostro piatto tradizionale bene. Cioè, queste cosette venete che sono proprio il certo, simbolo. Certo, qualcuno come al solito sbaglia, ne approfitta. Ma pensa, non è appunto qualcuno, guardi che adesso a Venezia, io capisco che è un museo a cielo aperto, i prezzi, mi va bene tutto questo, i prezzi sono molto alti. Ma guardi che imbroglio. Però almeno con qualità devono servire, dice giustamente. Sì, guardi, su questo non c'è nessuna qualità. Non c'è dubbio. Non c'è proprio. Questo mi dispiace per noi veneti, per noi italiani, che tutto sommato purtroppo siamo un po' abituati ad essere imbrogliati. Cioè, però dopo sappiamo anche di noi, ma soprattutto grazie per gli stranieri. Sei stata chiarissima, giustamente. Venezia è una meta così gettonata, e addirittura appunto c'è la polemica, il dibattito a tempo di mettere il numero chiuso, però tutto deve essere all'altezza chiaramente della città e anche dei prezzi. C'è Bruno invece da Pistoia, quindi siamo in Toscana con Bruno. Ciao Bruno. Sì. Bruno? Sì, buongiorno. Buongiorno Bruno. Che dici da Pistoia? O che tu dici? Vabbè, io posso dire anche quello che tanto sono, so se è vero. Sì. Io so per solo il sull'autostrada, sì, vengono ci sono delle royalty che vengono pagate dalle insieme all'autostrada. È vero o no? Allora, io adesso in questo momento, Bruno, non te lo so dire, però intanto ti ringrazio perché collego alla tua telefonata all'800 24 0024. Intanto Bruno c'è sempre? Sì, sì. Bruno, scusa, a parte questo argomento al quale leggo un messaggio che vedo adesso su WhatsApp, tu sei in vacanza, vai in vacanza, sei già stato? No, non ci vai? Non vado. Non vai? Perché? No. Per questioni economiche? Perché non ho il tempo di andarci. Ah, non hai il tempo di andarci. Lavori troppo tu, Bruno. Lavoro troppo, sì. Ogni tanto stacchiamo però, se puoi. Vabbè, quando potrò staccherò tutto insieme. Bene. E scappo in Brasile. In Brasile addirittura, perché no? Grazie Bruno. Intanto scrive questo ascoltatore al 349-238-6666. Intanto continuate con le vostre telefonate invece al numero verde 800-24-0024. Dice, l'aumento dei prezzi del carburante mi sembra naturale in presenza di aumento della domanda di carburante, e in autostrada è molto conveniente avere stazioni di rifornimento, il vantaggio aggiuntivo quindi deve in qualche modo riflettersi nel prezzo. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la fotografia, baciavo la Carrà. La faccio finita e fammi il piacere. Cosa dovrei dire io? M'han sorpreso con Mina. Ruba una bici e andiamo, chi lo sa. Sul serio sai, fuggiamo la grande, fuggiamo da star. Si parte stasera, è meglio domani. Guardiamo la partita, so già com'è finita. E allora, e con la bici fuggiamo, e chi lo sa. Si parte fate sul serio, dai. Partiamo alla grande, partiamo da star sotto. Ecco, per esempio, il problema della benzina non lo trova chi decide di fare la vacanza in bicicletta. È molto ecologica, non c'è bisogno di fare rifornimento, se non diciamo di alimenti, magari in certi casi particolarmente energetici, per riuscire a pedalare per tutto il percorso che si vuole fare. Ne parliamo con Ludovica Casellati, direttrice responsabile di viaggiinbici.com, ideatrice del premio Italian Green Road Award, che premia i più bei percorsi ciclabili in Italia. Casellati, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È in bicicletta lei in questo momento? No, con questo caldo non è così bello pedalare. Ecco, a proposito, in contrasto con la canzone. E non rubiamo la bici. La bicicletta, compriamoci, ci sono anche quelle usate. Anche esatto. No, quindi diciamo le opportunità sono molte. E Casellati, oppure la si può noleggiare, e quindi cresce il cicloturismo in Italia. Leggevo tra l'altro, mi pare oggi su Repubblica, che Berlino in Europa è la capitale della bicicletta. Noi come ci comportiamo, soprattutto in vacanza? Come va questo tipo di turismo? Allora, gli italiani devo dire che hanno imparato, e c'è questo trend per cui sempre di più le vacanze degli italiani prevedono lo sport, e quindi ovviamente inteso in senso generico, e in questo si inserisce anche la bicicletta. La bicicletta però, noi adesso siamo in estate, diciamo non è la stagione ideale, consente, e quindi il cicloturismo consente di destagionalizzare, e questa è la grande forza del cicloturismo. È per questo che economicamente si parla di bike economy, perché i territori, prima lo diceva Rienzi, il cicloturismo fa sì che possano essere valorizzati i territori, i piccoli comuni, e quindi al di là delle città d'arte di cui sempre parliamo. E quindi in questo senso anche i piccoli comuni possono beneficiare di flussi di turismo che devono essere ovviamente intercettati. Mm-hmm. E poi l'altro aspetto molto molto positivo appunto è che si può pedalare piacevolmente da marzo a luglio, altrimenti nelle prime ore, infatti i ciclisti si vedono nella stagione estiva solo nelle prime ore del mattino. Bisogna essere mattinieri, quindi bisogna essere mattinieri perché fa molto caldo, cioè è stata un'estate poi questa davvero bollente. E poi fino a ottobre, novembre, è questo il grande aspetto interessante. E l'Italia si sta attrezzando, perché ogni regione, lo ricordava prima, noi abbiamo ideato l'Italian Green Road Award, che è l'Oscar italiano del cicloturismo, che ha proprio l'obiettivo di promuovere queste realtà che esistono e sono poco conosciute in tutta Italia. Perché ogni regione in realtà candida delle ciclabili o delle vie verdi, perché appunto si diceva è diverso parlare di ciclabile o di via verde, perché le vie verdi comprendono anche delle strade secondarie, delle strade bianche. Mm. Quindi non asfaltate le strade bianche, no? Esatto, esattamente. E ci sono ormai a macchia di leopardo, bisogna dire, perché dall'Alto Adige alla Sicilia c'è un po' di differenza, però sono proprio in tutta Italia. Gli italiani pedalano, ma il dato interessante è che ci sono tantissimi cicloturisti da intercettare anche in Europa. Pensiamo solo che la Germania ha quasi 5 milioni di cicloturisti, quindi sono veramente tanti. E da noi pedalano, si diceva l'anno scorso, mediamente 2 milioni di cicloturisti. Oppure nel periodo che diceva, nella stagione buona, insomma, diciamo così. Però come diceva lei, Casellati, ci sono situazioni a macchia di leopardo, però appunto nel senso che per esempio l'Alto Adige è un'eccellenza da questo punto di vista, no, per chi vuole fare del cicloturismo, mentre l'Alto ci sono altre Adige regioni. L'Alto Adige è il Trentino, ma ci sono anche delle eccellenze in Liguria, penso alla ciclabile da San Lorenzo al Mare a Ospedaletti, da dove è partito il Giro d'Italia, ci sono delle eccellenze in Veneto, che quest'anno ha candidato la Cortina Jesolo, quindi si va dalle Dolomiti in bicicletta qua, al mare, quasi su di un percorso su sede propria dedicata. Ma è particolarmente impegnativo, per esempio, per quel percorso, dice, dalle Dolomiti al mare. No, perché in discesa. Ah, tutto in discesa, quindi bisogna avere buoni freni, diciamo. Sì, ma diciamo che adesso la tecnologia ci viene in aiuto, perché grazie alle e-bike, diciamo che l'e-bike ha avvicinato dei mondi e rende possibile e praticabile a tutti la bicicletta. Ma nel senso, la bicicletta motorizzata, quella col motorino, oppure? No, l'e-bike è pedalata assistita, nel senso che c'è una batteria, le biciclette sono dotate di batteria, e questa batteria aiuta Io ad esempio non sono allenatissima, se voglio andare in montagna in mountain bike, in salita preferisco utilizzare l'e-bike perché mi consente di fare cose che altrimenti ecco che a volte vedo filare con una velocità certe persone in salita che magari non sembrerebbero così in forma, ecco qual è il segreto, sta lì tra i pedali. Casellati, allora, se dovesse dare proprio qualche indicazione, appunto andiamo da nord a sud o da sud a nord, che so, 5 percorsi imperdibili. Beh, allora io mi rifaccio anche all'Italian Green Road Award perché appunto noi poi valutiamo le più belle, per cui l'anno scorso ha vinto questo premio, che poi sono state premiate a Cosmo Bike a Verona alla Fiera Internazionale della Bicicletta insieme appunto alla Bosch che lo organizza con noi, e abbiamo premiato l'Alpe Adria che è una ciclabile quasi totalmente su sede propria che dalla montagna da Tarvisio arriva a Grado, alla Laguna di Grado, passando per luoghi bellissimi come ad esempio Aquileia, come ad esempio dei borghi, Venzone, ne cito uno che è stato eletto il Borgo dei Borghi, per cui ecco prima dicevo fa emergere anche dei territori, dei paesini che altrimenti noi difficilmente ci si passerebbe. Difficilmente ci si passerebbe. Poi se ci vogliamo spostare, ricordavo la Liguria, ma ci sono moltissime ciclabili anche in Lombardia, sul lago di Garda. Io ho fatto ad esempio bellissimo, godibilissimo, per chi non è allenato magari un e-bike è consigliabile, il sentiero del Ponale che da Riva del Garda va sul lago di Legro utilizzando una vecchia strada della prima guerra mondiale. E scendendo vi ricordo in Toscana, beh, un percorso storico e un percorso che viene valorizzato anche da una ciclostorica che è l'Eroica, che appunto si svolge il 1° di ottobre ed è un percorso lungo le strade bianche della Toscana, bellissimo. La regione Abruzzo sta realizzando una ciclabile che va dal primo comune Martinsicura a San Salvo all'ultimo, tutto lungo la costa utilizzando anche le ferrovie, un tratto di ferrovia dismessa. Questo è un bellissimo progetto, ad esempio, che consente di percorrere, sono 131 chilometri, uno si organizza e si vede tutta la costa abruzzese in bicicletta. Più al sud? Beh, allora, quest'anno la Puglia ha candidato la Via Traiana, che è un bellissimo percorso. Io non me l'aspettavo perché si parla sempre di altri... dei grossi finanziamenti. Questo è un percorso che va da Ignazia ad Ostuni. Bellissimo, ed è all'interno di un parco, addirittura un alberga bici, una vecchia casa della stazione, era appunto una vecchia stazione, è stata ristrutturata e riconvertita in un albergo per biciclette, per ciclisti, e anche questo è un percorso bellissimo, molto segnalato, pieno di aree di sosta, con anche bici grill e punti dove eventualmente riparare, perché anche questo è importante quando uno viaggia in bicicletta, avere un punto di riferimento per riparare una ciclofficina se uno buca. Infatti, che può essere un imprevisto, diciamo, di percorso. Ludovica Casellati, tra l'altro, sì, prego, prego. No, poi mi ricordavo un'altra bellissima esperienza. L'ho conosciuta anch'io grazie all'Italian Green Road Award, questa non è una ciclabile, è una via verde, nel senso che dei ragazzi del Cilento, che devo dire in campagna non è molto battuto dal turismo, hanno organizzato un anello di 600 chilometri e quindi hanno messo a sistema un territorio facendo emergere anche una ricettività quindi diffusa, mettendo tutto in rete, piccoli ristoranti, si parlava prima di enogastronomia, piccoli bed and breakfast, e ne hanno fatto la Via Silente. Questo è un bellissimo progetto che è emerso grazie a dei giovani. Quindi c'è veramente tanta scelta. Il cicloturismo, è certo, il cicloturismo può essere una grande opportunità, c'è molto da fare, dicevamo siamo molto indietro, però i fatturati, siccome vediamo che non so, la Germania fattura 16 miliardi, e non solo col cicloturismo, ma 300.000 addetti a tempo indeterminato, può essere una risorsa anche per noi. Parliamo sempre di crisi, cioè può essere una grandissima risorsa. Casellati, poco utilizzata. Se dovesse dare dei consigli per chi vuole avvicinarsi al cicloturismo, per esempio, è meglio noleggiare sul posto? Non sempre probabilmente si può noleggiare sul posto la bicicletta, no? Bisogna portarsela dietro. Allora, siccome ci si informa sempre, è necessario informarsi prima di partire, fare un viaggio in bicicletta. O ci si rivolge, se è la prima volta è meglio rivolgersi a un tour operator e ce ne sono tanti, che organizzano proprio un viaggio dalla A alla Z, quindi procurano la bicicletta, stabiliscono già le tappe. Dove ci si riposa, dove si alloggia. Dove ci si riposa, portano i bagagli, perché poi la difficoltà di chi lo fa per la prima volta è quella anche del bagaglio, perché in bici e non ci si può portare molto bagaglio. Anche per essere morigerati non è da tutti, diciamo, no? Portarsi quattro cose. Quindi ci sono anche dei tour operator che consentono di poi portare da un albergo, da una tappa all'altra, le valigie. Per cui ecco, diventa tutto molto più facile, più semplice. Quindi su internet cercare i siti, le associazioni che se ne occupano, oppure viaggiinbici.com, di cui lei, ricordiamo, è direttrice. Noi, esatto, diamo tante informazioni anche di questo tipo, sicuramente. Grazie Ludovica Casellati, buone pedalate allora. Grazie, buone pedalate a tutti. Grazie. Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore. Ma fra rabbia ed amore la distanza già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. E qui non si parla di campioni naturalmente, quindi giusto appunto anche neofiti che possono avvicinarsi, come avete sentito, al cicloturismo a seconda dei percorsi, delle cose organizzate più o meno, no? Oppure quelle che si possono fare anche in solitudine. Però diciamo che chi andasse troppo veloce, come in questo caso i campioni di cui parla De Gregori, potrebbe beccare anche in bicicletta l'autovelox, vuol dire che proprio veramente, diciamo, altro che da Giro d'Italia. Ne parliamo con Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Ciao Maurizio. Buongiorno. Non so, a me è capitato anche correndo, facendo la runner, di prendere l'autovelox, forse per questo che, diciamo, diminuiscono i punti sulla patente. Ma Maurizio, al di là delle sciocchezze che si possono dire d'estate, invece parliamo di cose serie, di autovelox sì, per i quali sono previste alcune novità, mi sembra, ultimamente. Sì, sono previste alcune novità che appunto non c'entrano con la bici. Sulla bici bisogna soprattutto stare attenti, perché abbiamo avuto anche dei casi ultimamente, molto recenti, sì. Esatto, che hanno rinfocolato le polemiche, e insomma il codice della strada vale anche per la bici, e soprattutto vale in maniera più cruda, perché il ciclista è molto meno protetto rispetto a chi viaggia in auto. Hai fatto bene a ricordarlo, anche perché spesso chi va in bicicletta si sente un po' esente, no, dalle regole del codice della strada. Esatto, e soprattutto quando ci sono anche delle organizzazioni, appunto anche il cicloturismo eccetera eccetera, sono proprio dei gruppi organizzati che promuovono l'uso della bicicletta, cosa assolutamente bella, meritoria eccetera. Però quando si fa tutti quanti si fa accordata, poi ci si sente molto forti, un gruppo si sente molto forte anche sui social, c'è un'aggressività nei confronti dell'auto, probabilmente un'aggressività che viene da decenni di frustrazione, perché obiettivamente poi anche gli automobilisti, quando sono automobilisti, sono prepotenti, e il problema è che le strade, purtroppo, soprattutto in un paese come l'Italia che è molto affollato, le strade sono di tutti, quindi ci vuole reciproca tolleranza. Non si può dire che abbiano sempre torto i ciclisti o sempre torto gli automobilisti, quindi attenzione, ognuno per il proprio, sia prudente, abbia la consapevolezza che ci sono anche gli altri. Benissimo, doverosamente ricordato queste regole, Maurizio. Quindi invece per quanto riguarda gli autovelox che sono piazzati in particolare sulle autostrade in questo periodo, no? Si viaggia per andare nelle varie località, cosa bisogna sapere? In linea generale la regola è rimasta invariata, cioè esattamente da 10 anni, domani proprio festeggiamo il compleanno dell'autovelox. Sì, il compleanno dell'autovelox visibile. Sono 10 anni che per legge in Italia tutti i controlli di velocità devono essere presegnalati, e la postazione da cui vengono svolti deve essere visibile. Allora in questi 10 anni è stato necessario, diciamo, è emersa la necessità di fare una revisione sono stati 10 anni di rodaggio, e quindi sono state precisate meglio alcune regole che diciamo, invitano alla trasparenza. Il concetto più importante è che se le regole di trasparenza prima venivano in qualche modo, potevano essere eluse, disattese, eccetera, eccetera, fondamentalmente non succedeva nulla, salvo trovare un giudice di pace, diciamo, ben disposto. Adesso diventa un po' più, diciamo, per chi vuole barare, diventa un po' più difficile, perché... Ma per chi vuole barare, scusa Maurizio, da parte di chi colloca gli autovelox? Da parte di chi colloca, esattamente. E allora diventa più rischioso, perché alcune regole che prima erano soltanto delle indicazioni ministeriali sono diventate un decreto ministeriale, quindi chi lo viola rischia di essere denunciato per abuso d'ufficio. Quindi le regole sono che va segnalato l'autovelox quanti chilometri prima? Allora va segnalato da 4 chilometri prima, al massimo 4 chilometri prima, fino a 80 metri prima in città. Quindi il cartello lo potete trovare appunto sia 4 chilometri prima, in un intervallo che va dai 4 chilometri agli 80 metri, che poi diventano 250 in autostrada questi metri. Ma poi ci sono tutta una serie di casi, sottocasi molto, molto articolati, molto complicati, che sono diciamo emerse tante situazioni anche locali, ma la cosa fondamentale è che i cartelli devono essere in regola, perché l'Italia è un paese, ecco, anche qui parlando di turismo, l'Italia è stato un paese deturpato, è tuttora un paese deturpato dai vari cartelli che presegnavano autovelox, ma sono cartelli di varie generazioni, abbiamo cominciato a metterli oltre 30 anni fa, quindi abbiamo cartelli di varia natura, vari colori, vari formati grafici, varie dimensioni. Ora andrebbe tutto assolutamente messo a posto, diciamo, con anche con una veste grafica più sobria che quella fissata appunto 10 anni fa. Basta che siano visibili, chiaramente, no Maurizio? Devono essere visibili, ma devono essere anche aggiornati. Se non sono aggiornati, questa è una novità più importante, bisogna piazzare bisogna toglierli e sostituirli, questa è la prima cosa, oppure molto spesso ci sono dei cartelli che ormai tutti hanno imparato, sono cartelli che non sono credibili perché preannunciano controlli che non ci sono mai stati negli ultimi 10 anni, e allora in quel caso anche se c'è questo cartello, anche se non è anche se c'è questo cartello permanente, lì bisogna fare in modo che quando si piazza la pattuglia a fare il controllo arrivi questa pattuglia a mettere dei segnali temporanei, quelli tipo quelli di cantiere, quelli che si tocciano per terra. Maurizio, scusa, a questo proposito, infatti leggevo questo messaggio di Irzak da Santeramo in Colle, vicino Bari, che scrive: e per quelli mobili, cioè dei vigili, carabinieri, eccetera, quali sono le regole? Lo stai dicendo quindi bisogna mettere il segnale quando viene effettuato materialmente il controllo, salvo che siano controlli concordati, diciamo, con la prefettura nell'ambito di un programma, per cui si sa che magari almeno due volte a settimana ci si organizza per fare questo controllo. Allora lì si possono tenere i cartelli permanenti. Siccome purtroppo i controlli spesso non vengono concordati, allora bisogna utilizzare questo espediente che vi dicevo prima. In realtà le nuove regole hanno soprattutto lo scopo di coordinare i controlli e di estenderli tra l'altro ad altre cose oltre alla velocità, quindi soprattutto i telefonini e le cinture, siccome poi alla fine la polizia ha sempre meno personale, si tratta di concordinarsi nelle varie province in modo tale che i vigili aiutino i poliziotti, i carabinieri aiutino i poliziotti, proprio per fare in modo che questo personale venga sfruttato al meglio, senza né buchi né sovrapposizioni. Vedremo se ci riusciranno davvero, questo ce lo dirà soltanto l'esperienza dei prossimi mesi. Comunque cercate di viaggiare anche proprio per la sicurezza vostra e degli altri secondo i limiti di velocità. Grazie Maurizio. Attenzione una cosa, autovelox mobili nel senso di quelli non messi fissi permanenti, attenzione però perché sono anche quelli mobili nel senso che stanno su auto di servizio, possono rilevare la velocità anche mentre si muovono, allora quelli non vanno presegnalati, non vanno né presegnalati e possono rimanere invisibili. E sono più, i più insidiosi. Questa è eccezione, sono pochi ma sono molto temibili. C'è scritto forse Maurizio, prima di salutarci, Francesco da Piacenza ha chiamato all'800240024 per farti una domanda, Francesco? Sì, volevo chiedere, ma non c'è il cartello del limite di velocità? Negli Stati Uniti basta quello, non c'è scritto attenti allo sceriffo. Sanno tutti gli automobilisti che se sgarrano vengono presi. Vuoi dire non c'è bisogno del cartello ma perché certo, sanno che devono... Io so che su una strada devo tenere 50 km all'ora perché è pericoloso, mi ammazzo o d'ammazzo ciclisti e pedoni, tra l'altro, oppure uccido altri automobilisti come avviene spesso. È chiaro che basta il cartello del limite di velocità, poi la polizia è libera di appostarsi, di vedere, di palesarsi o meno, ma deve punirmi. Basta il cartello del limite di velocità. No, sei stato chiarissimo. Non ho visto cartelli, dici. C'è scritto il limite di velocità e a quello bisogna tenersi senza bisogno di preavvisare in modo che uno rallenti, dice proprio opportunisticamente. Grazie Francesco, che dici per chiudere, Maurizio? Cosa rispondi? Dipende, noi abbiamo questo obbligo, siamo uno dei pochissimi paesi al mondo che ha questo obbligo, ma anche perché c'erano stati diversi abusi, perché molto spesso lo si usa per fare cassa. Dal punto di vista tecnico qual è il problema? Il problema è che ci sono alcuni punti dove è pericoloso, quindi il controllo va assolutamente reso visibile e presegnalato per garantire che la gente non superi una certa velocità, è una questione di sicurezza. Poi ha ragione il nostro ascoltatore, in altri punti sarebbe invece necessario stare nascosti perché il difetto di questo principio della trasparenza è che se io non vedo un controllo faccio quello che voglio. Allora chi fa quello che vuole molto spesso è portato ad abusare anche molto più del ragionevole. Quindi allora meglio mettere un cartello in più che uno in meno. Occorrerebbe un sistema misto, insomma. Chiaro. Questo è. Grazie Maurizio Caprino e buona estate a te. Ciao Maurizio. Grazie a voi. Ciao, ci prendiamo questa pausa, sì, poi ritorniamo insieme per parlare anche di, invece, a proposito di rischi, qui parlavamo dei rischi su strade e autostrade, quindi le regole invece, i rischi per quanto riguarda la tintarella. 800 24 0024, tra poco, anche se volete fare le vostre domande. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Ma cos'è quest'estate? Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. E tra poco ne parliamo di tintarella, quindi preparate anche le vostre domande, se ne avete dubbi, richiesta di indicazioni, 800 24 0024, esperienze di bruciature eccetera. Però prima volevo leggere ancora dei messaggi che stanno arrivando, vi ricordo per questo il numero verde è 800 24 0024, numero verde quindi gratuito. Leggere ancora dei messaggi, dicevo, sull'argomento di prima. Luigi da Roma, che scrive invece all'altro numero per messaggio WhatsApp, dice: se le persone rispettassero le regole non ci sarebbe nessun effetto cassa, perché prima Maurizio Caprino del Sole 24 Ore a proposito degli autovelox spiegava che da noi ci sono i cartelli sia perché certi punti sono particolarmente pericolosi e quindi è meglio una segnalazione in più per chi sta guidando in modo che nessuno possa distrarsi o abusare, insomma, della velocità. E anche perché dice, in certi casi succedeva anche in città, soprattutto per esempio a Milano, che li si collocassero in particolare per fare cassa. Questo per rispondere a Luigi. Poi invece un altro ascoltatore dice: negli Stati Uniti la contestazione è immediata, e poi vogliamo parlare delle strade a quattro corsie anche se con il limite a 50 eccetera eccetera. Ancora su questo argomento dice questo ascoltatore, scrive al 349-238-6666, perché se andiamo in Austria o in Svizzera gli autovelox non sono così segnalati e la gente rispetta di più le regole? Abbiamo detto, siamo differenti, che ci possiamo fare. Invece adesso parliamo di pelle al sole con la dottoressa Adele Sparavigna, che è specialista in dermatologia e venereologia, presidente dell'Istituto Derming. Buongiorno, dottoressa Sparavigna. Buongiorno. Quindi le regole per una tintarella sana, per evitare scottature, per evitare anche invecchiamento precoce, no? Che sappiamo il sole è, sì, diciamo, è un grande beneficio per noi, però nello stesso tempo è forse il più grande acceleratore di invecchiamento della pelle. Io con i miei pazienti amo fare un discorso più ampio rispetto alla protezione. Secondo me la protezione fa parte di un progetto globale che è il prendere il meglio dal sole. Quando ci proteggiamo abbiamo bisogno non solo di indossare la crema solare più adatta al nostro tipo di pelle e alle condizioni di abbronzatura in cui ci troviamo, ma dobbiamo anche indossare indumenti protettivi, usare un cappello anche se ci teniamo ai nostri capelli e soprattutto utilizzare anche gli occhiali da sole. Fatta questa premessa, però, bisogna ricordare che il sole produce anche molti effetti salutari che sono indispensabili per il nostro organismo. Sappiamo, per esempio, che c'è una produzione di endorfine, quindi una bella tintarella e un'esposizione al sole migliorano il nostro umore, e questo non è cosa da poco. Ma ci sono anche alcune patologie dermatologiche che migliorano con le radiazioni solari, come per esempio la psoriasi, la dermatite seborroica, la dermatite atopica, l'acne. Ma dove il sole è veramente insostituibile è nella produzione di vitamina D. Quindi noi abbiamo bisogno di convertire la vitamina D inattiva nel nostro organismo in vitamina D attiva, e questo lo possiamo proprio fare esponendoci al sole. Quindi noi non possiamo proteggerci al punto tale da rinunciare a tutti questi effetti benefici del sole. Ci sono quindi, però, dottoressa Sparavigna, anche degli orari particolari in cui brava, è meglio esporsi. Ah. Allora, bisogna assicurarsi ogni giorno la nostra buona dose di sole. Per assicurarsi questa dose di sole dobbiamo evitare di andare protetti al sole, e allora come facciamo? Una decina di minuti al giorno, nelle prime ore del mattino, oppure nelle tarde. Quindi intendiamo esattamente, dottoressa, come orari? Perché entro le 10. Entro le 10, perché dalle 10 in poi il sole diventa più aggressivo. Più aggressivo. E dopo le 17, noi possiamo andare al sole tranquillamente con la pelle scoperta, senza aver applicato la crema solare. 10 minuti di attività all'aria aperta ci assicureranno la nostra buona dose di vitamina D. Dopodiché, nelle ore peggiori, tra virgolette, indossiamo gli indumenti protettivi, applichiamo la crema solare, ma attenzione, anche la crema solare deve avere un fattore di protezione solare adatto alle nostre condizioni e dall'ambiente in cui ci troviamo. Quindi, ma se qualcuno, appunto, sapendo che dalle 17 il sole è meno aggressivo, può starci, deve starci soltanto 10 minuti e poi mettersi la crema, oppure dalle 17 in poi può stare tranquillamente senza troppe protezioni? Dalle 17 in poi, in generale, per soggetti normali che non abbiano determinate patologie che determinano fotosensibilità o che non prendano farmaci che fotosensibilizzino, si può stare tranquillamente al sole. Anzi, io consiglio a quell'ora di prendere le radiazioni fino al tramonto. Questa è una buona notizia. Sì. Quindi dalle 17 in poi. Senta, invece, per quanto riguarda il cappello, per esempio, anche a me piacciono i cappelli, ogni tanto me ne compro qualcuno, poi però non mi scoccio a metterli perché mi sembra che facciano caldo in realtà, o che insomma no, sia una cosa in più addosso da portare in un momento in cui ci piace stare scoperti. Perché mette il cappello? Il cappello è importante perché altrimenti in autunno li vedremo cadere come foglie. Quindi, nel senso che il sole determina addirittura la caduta dei capelli? Certo, il sole può aggravare le condizioni di alopecia. E quindi assolutamente dobbiamo trovare dei cappelli che siano traspiranti, cioè fatti dei materiali giusti, non materiali sintetici, ma assicurare alla cute del cuoio capelluto l'ombra significa preservare anche la qualità del capello. Dottoressa Sparavigna, ma anche chi non ha problemi di alopecia o di altro tipo deve proteggerli, perché comunque c'è questo rischio di caduta poi in autunno? Allora, in autunno è vero che i capelli cadono di più, e questo è fisiologico, però se vogliamo un attimino rallentare, frenare questo processo, certamente l'utilizzo del cappello ci aiuterà. C'è qualche cibo che si dice sempre, le carote oppure tutti gli alimenti che contengono il beta-carotene, la vitamina A, che possono aiutare a proteggere durante l'esposizione al sole la pelle? Fondamentalmente tutta la frutta e gli ortaggi di colore rosso. Oltre ai caroteni abbiamo anche, per esempio, il beta-licopene. Il licopene è contenuto nel pomodoro. Del pomodoro, sì. Ma viene sprigionato dal pomodoro soprattutto durante la cottura, e così come altre sostanze antiossidanti, perché è molto importante, da un lato, con i pigmenti rossi favorire il processo della melanogenesi, dall'altro è importante proteggersi dai radicali liberi che si sviluppano con l'esposizione al sole. Per quanto riguarda invece le creme, per chiudere, dottoressa Sparavigna, qualcuno dice, adesso cominciano anche a esserci da diverso tempo delle creme che evitano una serie di sostanze che magari non sono particolarmente benefiche, qualcuno ha anche la sensazione che non facciano traspirare, che coprano troppo la pelle, i pori. Quello fa parte del veicolo nel quale sono messi i filtri solari, che invece ci servono a proteggerci. Quindi è molto importante, per esempio, un soggetto che fa sport oppure un soggetto che va in barca non può mettere una crema grassa, ha bisogno di un gel, ha bisogno di una emulsione molto leggera, addirittura di uno spray. Quindi questo dipende anche dalle condizioni della pelle, che sia una pelle secca, che sia una pelle grassa, quelle che sono le abitudini del soggetto. Fortunatamente al giorno d'oggi noi disponiamo di diverse formulazioni che possono andare incontro alle diverse esigenze. Comunque fuori diciamo, al di là di queste esigenze particolari, è d'obbligo, fuori dagli orari che lei ha detto che sono, diciamo, più salutari, mettersi le creme protettive. A questo punto, dottoressa Adele Sparavigna, le auguro buona tintarella anche a lei, buona estate, grazie. Grazie altrettanto. Ma cos'è quest'estate? Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Cerco il mare, una vita reale. Tra poche ore, tra poche ore. Sotto il sole, sotto il sole. E allora c'è chi sta sotto il sole, chi sta a casa e chi rimane bloccato domenica d'agosto, il 13 d'agosto, in ascensore, e si passa lì tranquillamente due ore. Per tutti i gusti, insomma, ce l'è in questa estate. E infatti questa esperienza ce la facciamo raccontare, esperienza successa, volevo farlo in presa diretta, è successo ieri, ho mandato un messaggio a una collega del Sole 24 Ore, così avevo bisogno di un'informazione, e lei mi ha informato a sua volta che era chiusa in ascensore, che in quel momento, insomma, non poteva fare molto altro. Che significa rimanere chiusi in un ascensore il 13 d'agosto alla vigilia, antivigilia di Ferragosto, in una città semideserta, in un palazzo praticamente deserto? Lo chiedo proprio alla protagonista di questa disavventura, che è Giulia Crivelli, che sicuramente molti di voi conoscono anche per la rassegna stampa della mattina. Cara Giulia. Sì, ieri dovevo andare a bagnare i fiori di mia mamma e dar da mangiare a una sua gattina. Abita un numero civico prima di me, miracolosamente sono uscita con la borsa, normalmente non lo faccio, salgo in ascensore e dopo ma ero tra il secondo e il terzo piano, dovevo arrivare al terzo, l'ascensore si blocca. E mi è venuto da ridere, francamente. E questa è una buona reazione, qualcuno viene un attacco di panico. Sì, poi devo dirti che siccome ho subito cominciato a schiacciare un po' nervosamente il numero 3 e l'ascensore si muoveva un centimetro per un centimetro per un centimetro, sono subito venuti in mente i film americani dove gli ascensori precipitano, dove i soccorsi non arrivano, oppure si tratta di un attacco strano di qualche terrorista. Esatto. Qualche malintenzionato. Senti Giulia, quindi tu praticamente andavi appunto a innaffiare le piante della mano, come succede spesso, no? Che si hanno queste incombenze d'estate, e si è bloccato l'ascensore. C'erano le prese, io la prima cosa che guardo in un ascensore sono le prese d'aria. C'erano le prese d'aria? Ecco, no, nessuna presa d'aria, un ascensore un po' vecchio, però c'era un numero. Era un numero fisso, però ho detto, oh, il 13 di agosto, un numero fisso, chissà. Per fortuna avevo la borsa e il cellulare. Cioè c'era la targhetta di ferro che dovete sempre guardare se rimanete chiusi in un ascensore. C'è una targhetta di ferro con un numero da chiamare nel caso di naturalmente guasti. Avevo schiacciato anche il pulsante giallo allarme, ma niente. E quindi ho chiamato. Era in vacanza anche il pulsante dell'allarme questi giorni. Ho chiamato e devo dire, mi ha risposto quasi subito una signora molto gentile che mi ha detto che qualcuno sarebbe venuto a liberarmi. A quel numero fisso hanno risposto il 13 d'agosto di domenica. Hanno risposto il 13 d'agosto di domenica. Devo dire, io nella contentezza di ricevere questa risposta non ho chiesto ma tra quanto. E così ho passato lì circa tre quarti d'ora. Però a un certo punto avrei voluto richiamare, poi mi sono resa conto che qualcuno stava cercando di entrare nel portone, perché sentivo tutti i... c'era come un concerto di citofoni dall'interno delle case, perché nel silenzio totale del palazzo. E perché a quel punto il problema era che il salvatore, il liberatore, provava a entrare nella casa, ma nessuno gli rispondeva, nemmeno la portinaia ovviamente. E chiaramente non avrà avuto lui la chiave del portone, no? Assolutamente. Quindi cercava, no. Suonava i citofoni perché gli aprissero. Io a quel punto col cellulare cercavo disperatamente mia mamma, mio papà, mia sorella per avere il numero di cellulare della portinaia, ma loro giustamente erano in spiaggia, quindi ciao, nessuno che mi rispondeva. A quel punto però una signora mitica, non so da dove sia spuntata perché la casa è disabitata, ha chiamato la portinaia che miracolosamente era lì vicino, benché fosse domenica, e a quel punto la portinaia ha aperto al liberatore. È arrivato il tuo liberatore. Però mi ha detto, allora intanto la fortuna che avessi dietro il cellulare, perché spesso persone distratte, ma anche a me capita magari di lasciare il cellulare in macchina oppure in casa, no? Invece diciamo fortunatamente tu ce l'avevi il cellulare, hai potuto fare questo numero. E prendeva, perché poi a volte all'interno degli ascensori non sono prende. Particolarmente isolati. In più, essendo un intellettuale, Giulia Crivelli aveva avuto la fortuna di avere con sé parecchi libri, giusto? Quindi ha avuto modo di leggerti qualche romanzo, qualche saggio. Sì, ti giuro, ho anche preso appunti per una breve recensione che devo scrivere. Mi sono messa lì, ho detto, mi distrago. Quindi hai ottimizzato, come si dice, no? Sì, poi devo dirti che un pochino è stato un po' tipo quella sensazione terribile sugli aerei quando incontri la turbolenza, perché quando il liberatore ha iniziato la sua opera di liberazione, l'ascensore ha cominciato a salire lentamente, scendere lentamente, salire lentamente. Cioè, non bisogna soffrire di mal di mare. Esatto, no? Esatto. Ma io mi chiedo in queste situazioni, ovviamente no, tu avevi i libri, sei stata liberata relativamente presto, essendo appunto una domenica di antivigilia. Sì, un paio d'ore in tutto. Un paio d'ore. Hai avuto pensieri? Cosa hai pensato? Hai rivisto tutta la tua vita? No. Devo dirti, Roberta, io in questo credo, mi ritengo anche fortunata. Io ormai ne ho quasi 48 e non ricordo una situazione, insomma, di situazioni non facili, qualcuna l'ho vissuta, in cui ho perso la calma. Perciò ho questa grande fortuna che o mi prendo in giro da sola, ho subito pensato, situazione fantozziana, quando lo racconto a mia sorella sarà sotto il tavolo da ridere, e comunque, insomma, non davvero ho mantenuto assolutamente la calma. Quindi consigli: mantenere la calma, sì. Avere con sé, se si pensa per un ascensore, un cellulare, possibilmente anche dei libri se si ama leggere, magari un cestino del picnic se dovesse, no, ecco, quello diciamo, devo dire che effettivamente ho pensato magari, insomma, per bere o qualcosa, io che poi tra l'altro bevo pochissimo e lì cominciava a far caldo ovviamente, ecco, quello sì. Allora tenere sempre, non so, una barretta energetica, vero, dietro qualcosa in borsa. Non ti chiedo se è necessario per esempio avere dietro un vasino nel caso uno dovesse proprio stare lì parecchie ore. Quelli, perché quella cosa, forse è per una più seria. Tu scherzi, però dopo sono andata in un negozio che vende alimenti per animali e ho comprato quelle ciotole portatili che si usano quando si fanno i viaggi lunghi con i cani, gonfiabili. Ho detto putta caso, e perché effettivamente poi pensi anche a quello. Equipaggiatissima, quindi sì. Per la prossima volta speriamo non succeda, no. Insomma, comunque una disavventura dalla quale si possono imparare tante cose. Grazie Giulia Crivelli. Grazie a te, ciao Giulia, Roberta, mi raccomando, ciao. Con gli ascensori. raccontare invece questa avventura di una ragazza veneta che per seguire il marito si è trasferita per qualche tempo a Napoli con le paure, no, con tutti gli stereotipi. Tipo Benvenuti al Sud, vi ricordate il film con Claudio Bisio? Dice: mia nonna mi ha salutata dicendo stai attenta ai proiettili volanti. Poi invece questa ragazza si è innamorata perdutamente di Napoli, adesso che la deve lasciare ha scritto una lettera d'amore che, come si dice su internet e sui social, è diventata virale, cioè tutti sono andati lì a cliccare a leggersi questa lettera, tanto che il sindaco di Napoli, De Magistris, l'ha anche voluta incontrare. La saluto, Valeria Genova, 31 buongiorno. Anni, trevigiana, autrice di questo post così diventato famoso. Valeria, quindi insomma sì. Napoli in realtà era diversa da come pensavi? Assolutamente sì, ero arrivata carica di pregiudizi perché purtroppo al nord spesso arrivano le notizie negative di Napoli e invece una volta giù mi sono immersa in questa città meravigliosa e mi sono ricreduta assolutamente. Dimmi la cosa più bella per te di Napoli. L'atmosfera. Perché sono tanti universi in un unico universo, tante piccole città nella stessa città e vive di contraddizioni e quindi questi contrasti, ricchezza, povertà, cultura e ignoranza creano un fascino irresistibile. Senti, tanto è piaciuta la tua lettera d'amore che anche il sindaco cosa ha dato la medaglia della città addirittura? Sì, esatto, dico anch'io addirittura perché non mi sembrava di aver fatto chissà quale gesto eroico per la città. Infatti tutto questo clamore dalla medaglia alla viralità del post ha stupito ha sorpreso. Anche me decisamente. Però sì. è bello sentire che chi poi va a Napoli anche da qualsiasi altra regione e città se ne innamori così tanto. Valeria Genova, grazie allora, sicuramente andrai a rivedere Napoli varie volte nella tua vita, immaginiamo. A questo punto Roberta Giordano vi deve salutare, ci risentiamo naturalmente domani. Ringrazio Chiara Compagnoni, Barbara Bianchi e poi il nostro Carmelo Lauricelli alla parte tecnica e Giulia Lauricella anche lei, e domani ricordatevi puntualmente alle 8:00.